Thank you. Thank you. Thank you. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫 ，Pops 音乐，让您轻松享受生活。每天5点、17点播出。 欢迎继续收听 Pops 音乐，接下来和你分享意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的《拿波里民歌》，曲目有我的太阳、重归苏联托等，下面请连续欣赏。

celle, aiuta tira, che su mare la dielle, devo sempre cancella dire veneno acqua. Venne lì da chi ste palazzo ma guarda, guardi su giardino, senti si e si sciurrange, lo profumo a così fino, tinto core fedela, e tu dici, o parta io, Oh, passo giorno e sera, ma tu turmento mio non può passare. Passa questa luna che è sincera. What the? ogni notte me siente cantar pisca tosti parole son lacrime e Maria calunca la me sta dorme o mare boca a boca tutto è pace a cuore non a me ma perché ma perché ma lasciato me ne triammo stanotte terra pusilco voi con ombra che segno me fa na manella e la voce me chiamano fra sti braccia Maria notturna piagne, piagne, rompe fai Tu sai, adò. da più di schiette far me non può. Adorno fuoco gocce ma si buie se lascia star. E non te copri a priesse, non te struie so a guardar. Fianno, fianno, coppa e ammaia. Fianno, fianno, coppa e ammaia. Curicule, curicula, curicule, curicula. Se ne s'aiuta in essere, s'aiuta alla capa già. E chiusa poi è tornata e poi è venuta, sta sempre qua. La capa vuota vuota attorno attorno, attorno a te. Lo cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai è. Iambo, iambo, in coppa iambo, 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Oh, sole se ne scende, me

sien sti braccelle aiuta attira ca suvere l'ariello devo sempre abbracciar vicino mare facim amore a cuore a cuore. Sova